Perché hai scelto la box? Ho scelto la box per svariati motivi. In primis per del bullismo che ho subito ai tempi delle scuole. Sicuramente la base è quella. Poi anche per una base di insicurezza legata a varie dinamiche familiari che ho vissuto. E però l'atto pratico l'ho iniziata perché qualche anno fa una ex fidanzata in fase di separazione mi aveva portato a uno stato d'animo talmente frustrato e triste che ho preso il via. E che cosa ti ha dato al giorno d'oggi? Mi ha dato sicuramente più sicurezza, delle capacità motorie sicuramente utili per la vita futura. Quindi che comporteranno sicuramente un'autonomia soprattutto in fase di età avanzata e anche una, appunto, una sicurezza e un'autostima sicuramente maggiore. E se dovessi trasmettere la sensazione più forte che ti ha dato come sport, è proprio quella cosa che ogni giorno vieni qui e conosciamo l'ambiente, cioè ogni giorno vieni qui e scegli di farlo, cos'è quella cosa che ti spinge così tanto a iniziare a fare? Il fatto che non ne posso fare a meno, perché è come, diciamo, una droga di tipo benefico, perché nel momento in cui dovessi iniziare a farne a meno sicuramente avrei dei riscontri che mi riporterebbero a dei passi indietro rispetto ai progressi che ho fatto dal punto di vista umano soprattutto. E come guardi l'avversario quando sali sul ring? L'avversario io lo raffiguro come la vita in senso figurativo, quindi in senso metaforico, perché ogni giorno prendiamo botte sicuramente dal punto di vista emotivo e insomma di stress e quant'altro. Quindi ogni giorno è una sfida, e quindi un avversario dal punto di vista materiale io lo raffiguro proprio come una qualsiasi giornata della mia vita, perché ogni giornata mi mette in difficoltà.